Rolex, baby, fumiamo fiori. Fotti la dark, sei con cima ai fiori. Sono troppo attivo, non posso stare fermo. Altico me i palazzi, piedi sul terreno. Ce ne frega un cazzo di andare all'inferno. La gang è la mia vita fino al giorno in cui crepo. Dark polo, Ferrari, cavallo nero. Ho i cargo pieni, fumo da un pacco d'erba. Corro verso i soldi come una gazzella. Vuoi finire in prima pagina alla Gazzetta? Mischio sciroppo con la gazzosa. Mi rilasso solo fumando erba. Dark gang, cupola. Quindi non fare lo stupido. La tua tipa fa la finta stupida. Le guardie mi prendono, faccio il finto stupido. Voglio tutto quanto e lo voglio subito. Fotti sette diavoli del centro dubito. Sette colli con sopra il cielo cupo. Divido cibo con il mio gruppo. Sto pensando ai soldi e sono concentrato. Diventare chi per sempre è un rompicapo. Dammi tutti i soldi e non rompere il cazzo. Dammi tutti i soldi e non rompere il cazzo. Facci venire il sangue alla testa. Sangue dal naso, vernice fresca. Taglio corpi come burro mozzarella. Frattagli in giro fra coratella. Mettimi il ferro sopra la tempia. C'ho il mondo in mano, il dito sul grilletto. Dark polo, gang boy, Armageddon. Piovono bombe sui grattacieli. Tocco una figa a bomba con la giarrettiera. Gatti neri morti, grattachecca. Maschera in faccia, mezzanotte e mezza. C'ho la schiena storta, colpo della strega. La luna storta, tipo morte nera. Piscia sopra la tua arte moderna. C'ho le mosche intorno, sono io la merda. Questa dice cazzate, dice che fa la modella. Ogni tanto ci becca, dice che sono superbo. Jordan 4, retrocemento. Darkseid, quello è mio fratello. Vuole sparare, non voglio trattenerlo. Faccio un tiro di Kush e lo trattengo. Medaglie d'oro, cortengo. Vampiri mi succhiano il veleno. Scappo dalle guardie, Nike per Venom.